L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, faccio la guardia giurata. L'altro giorno sono stato mandato in una fabbrica a sostituire un collega che sta da tanti anni in quella fabbrica perché era malato. Mi siedo nel gabbiotto, metto il podcast della zanzara ad alto volume, passa il titolare della fabbrica, mi sente che ascolto la zanzara, mi fa un cenno di riconoscimento come uno del popolo della zanzara. Risultato, dal giorno dopo sono stato richiesto fisso in questa azienda. Mitico, siamo al top. La zanzara per le assunzioni. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Sai che io trovo veramente insopportabile, Parenzo, il fatto che un sindaco neoeletto debba per forza andare ad omaggiare il Papa? Cioè, lo trovo una di quelle cose assolutamente... Beh, ma questo... Non lo trovo una cosa insopportabile, non so, sarà il mio anticlericalismo, sarà la mia avversione al Vaticano in quanto istituzione. Rapporti buoni con uno stato estero, con uno stato vicino, mi sembra normale. Stato estero, hai detto giusto, hai detto bene, non è sbagliato. È una visita però di stato. È una la prima stato. Cosa, vai subito dal Papa, con la città piena di immondizie. Spero prenda provvedimenti subito per togliere la monnezza dalle strade di Roma, perché non ne posso più di sentire cose formali, non ne posso più di sentire frasi fatte come quella che ha detto oggi la Raggi sul Papa. Cos'è che ha detto? Sentiamo, Papa Francesco è un uomo pieno di umanità. Beh, una vabbè, cosa certo, di questo tipo. Ma che vuol dire? Cosa volevi che dicesse? Ah, nulla, niente, niente. È uno no, schifoso non vestito di bianco. Quello no, penso, ma non banalità. però tra questo... E che deve dire? È il Papa. Appunto, meglio non dire nulla, meglio stare zitti. Un uomo pieno di umanità. Certo, un uomo buono. Non si dice nulla, non si dice niente, no, pur di non dire... Cioè, uno ha una strada, una scelta da fare. O non dici nulla, sei andato all'udienza dal Papa, punto e basta, perché si fa, eccetera, eccetera. Oppure non è che dici, no, Papa, però sentiamo. Era chiaramente la prima volta che incontravo il Santo Padre e ho scoperto una persona molto umana, veramente molto umana. Ah, beh, ho scoperto una persona molto umana. Sì, certo, questo è giusto. Ma giusto cosa, giusto? E cosa vuoi dire? Parole che non rimarranno. Parole che non rimarranno. Però ha detto una cosa giusta a un certo punto la Raggi, eh? Ha detto che non vuole fare le Olimpiadi. In realtà poi ha detto che ci vuole referendum, ma nemmeno quello si può fare. Referendum su tutto, voglio andare al cesso, aspetta che faccio un referendum. Sì, puoi andare, no, non ci puoi andare. Adesso devo fare la pipì, lo tiro fuori o non lo tiro fuori? No, ma basta con sto referendum, basta. Perché ti fa così schifo che la gente si esprima? Non capisco. Perché no, non è che esce la moda così schifo. Adesso io voto delle persone che sono in Parlamento, che sono pagate per prendere delle decisioni. Ma cosa c'entra? Che hanno gli strumenti per farlo. Ma in Svizzera fanno la stessa cosa da anni. Decidono su tutto. È un buco di culo di paese con 50 queste piccoline. Abbiamo accertato una cosa, caro ambasciatore della Svizzera, caro console della Svizzera a Milano. Ma no, lo faccio per dire, io adoro la Svizzera, ci vado a sciare spesso. La Svizzera è un buco di culo di paese. Ma no, ma secondo è un paese, dai, un buco di culo di paese. È un paese. piccolo paese in cui su qualunque cosa giustamente votano, dici vabbè no, sì. Adesso non cercare di recuperare quello che hai detto, un buco di culo di paese hai detto, un paese meraviglioso dove vado a sciare, no, ogni tanto di... scusa, tu alterni un secondo prima hai detto un buco di culo di paese, ma adesso sì, un paese meraviglioso, un buco di paese adesso non so se ho di detto culo, non mi detto. Ricordo quello che ho detto poco fa adesso, la Raggi e le Olimpiadi, allora il referendum adesso però non si può fare, i referendum si fanno, per me sono giustissimi i referendum, bisognava farlo anche sulle Olimpiadi, ma non adesso, bisognava farlo all'inizio della storia della candidatura alle Olimpiadi, cioè quando una città decide di mettere in moto un meccanismo, all'inizio lo ha fatto anche Amburgo, per esempio, in Germania, no? Sì, lo fanno Germania. Anche in Germania, certo. Ovunque. Ma certo, l'hanno fatto in Germania, inutile Grillo, l'hanno fatto in Germania, cioè Amburgo hanno fatto un referendum e la gente ha deciso no Olimpiadi. Adesso non si può più fare il referendum, chiaro? Meno male. Se i romani, che fino ad oggi in campagna elettorale non mi hanno mai parlato di Olimpiadi, mi dovessero chiedere un referendum, valuteremo il referendum. Ovviamente, però... Frase inutile pure questa. I romani, come lo decidono i romani? Cioè, un referendum sul referendum? Cioè, che vuole? Se i romani mi dovessero chiedere il referendum, ma come si stabilisce quando i romani chiedono il referendum? Con un altro referendum? Guarda, è veramente una follia questa roba qua. Però dice una cosa corretta, che in realtà è quello che pensa il neo sindaco di Roma. Non possiamo indebitare i cittadini per 40 anni, ed è la pura verità. Cioè, le Olimpiadi porterebbero all'indebitamento di una città, come è successo per quasi tutte le città. Ma chi la ecco, quasi tutte. Se fatto bene non ci si indebita. Guarda, le possibilità che l'Italia non possa fare debiti per qualcosa mi pare molto molto remota, diciamo la verità. Molto molto remota. Ma in questo momento nel quale abbiamo un debito di 13 miliardi di euro solo sulla gestione straordinaria, io credo che chiedere ai cittadini di indebitarsi per almeno altri 20, 30, 40 anni non sia etico, non sia giusto. Benissimo, allora ragazzi, tiriamo giù la Claire definitivamente. Perché queste buffonate? Vedremo, decideremo, i romani ci devono dire se il referendum. Non lo volete fare. Cioè, uno viene eletto sindaco per prendere delle decisioni. Si metta lì, faccia un bel discorso, al balcone di Mussolini, perché no, ecco, però là vicino, al balcone del Campidoglio, là sopra fuori, la giunta dove ha deciso, la statua di Marco Aurelio. Sì, quello che è, la giunta là fuori con una bella conferenza stampa enorme con tutta la gente intorno, la giunta grillina di Roma ha deciso che non vuole le Olimpiadi in questa città. Andatevene tutti a fanculo, da Montezemolo, dal comitato organizzatore, eccetera eccetera. Rimettono il vaffanculo di Grillo in loop e così si decide. Ma questo devono fare, questo si aspettano le persone, che uno prenda decisioni, no il referendum, forse i romani ci devono dire se i debiti sì o no. Scusa, sbaglio a dire questa cosa, Davide? Non mi sbagli, sembra che... sbagli completamente. No, come sbagli? Totalmente, sbagli. No, completamente, ma io ho detto il metodo, sto parlando, sì o no? No, ma va bene, ma hai un tasso di populismo quando proponi queste cose che sono... Ma che tasso di populismo? Io sto dicendo che devono decidere, qual è il tasso di populismo? Sto dicendo che la Raggi deve decidere, deve dire sì o no al referendum, alle Olimpiadi, non mi sembra una cosa strana. Ma già dire, già adesso rimettere... Allora, lei ha detto che non le vuole fare? Oh. Fine, basta, non si apra più il capitolo, basta con i referendum. No, invece non l'ha detto, questo lei... appunto. Campagna elettorale. No, campagna stiamo dicendo elettorale. La stessa cosa, guarda. Lei ha vinto dicendo che non voleva farle. Ora basta, puttanate, si metta lì dentro, bene, faccia bene questa roba e non ne parli neanche più. Vabbè, di Olimpiadi. E vediamo chi vi. Bene, e vediamo. Bene. E vediamo. D'altra parte, ragazzi, ma si possono fare le Olimpiadi in un paese dove, non so se hai visto sui giornali le immagini delle cartacce, dell'immondizia, non a Roma, che pure ci sono ovviamente, sì, ma il degrado della Reggia di Caserta. Io non so se hai visto quelle immagini lì disumane, delle cartacce, ho visto. Bagni zozzi, delle schifezze terribili. Ma come si fa? Come si fa solo a immaginare, a pensare di fare le Olimpiadi in questo cazzo di paese? Questo non c'entra, le Olimpiadi con questo non c'entra niente. C'entra, però, c'entra tutto. Perché bisognerebbe pulire la Reggia di Caserta, c'entra indipendentemente tutto dalle Olimpiadi. Ma sì, ma c'entra tutto, c'entra, anzi, tutto. Le Olimpiadi può essere uno stimolo in c'entra più per tutto farlo prima. Sì, vabbè. Veronesi, il professore Veronesi. Il professore Veronesi dice una cosa sacrosanta, diciamo la verità, lo dice da anni, da tantissimi anni, per l'ennesima volta. Tu sai che fra alla fine del mese, questo può essere uno spunto anche per le tue emissioni, come direbbe qualcuno, per le tue emissioni televisive, alla fine del mese inizia la legge alla Camera per la legalizzazione della marijuana. Ottimo, alla fine del mese Veronesi dice che vino e fumo fanno più morti della marijuana. Vino e fumo più morti della marijuana. E non c'è lo dubbio, dice un è oncologo, così. Quindi io non consiglio ai miei figli di fare la marijuana, ma non consiglio neanche di fumare o di bere alcol, ma l'alcol e il fumo fanno 10.000 volte più morti di quando ne fanno la marijuana. Non so se avete capito, ma fanno 10.000 volte più morti di fumo e della marijuana, il fumo e l'alcol. È molto stanca la voce veronesiana, eh? Beh, è quasi 90 anni, professore. No, per carità. Lunga vita, lunga vita. Sì. Dice Sgarbi che ha preso accordi per riportare la Gioconda in Italia. Boh, sarà. Tu ci credi a sta cosa? Dice che ha preso accordi per riportare l'idea, l'idea mi sembra ottima. Si potrebbe rapire la Gioconda addirittura. Quello dovrebbe essere il top, ecco. Quello dovrebbe essere il top. Però dice anche che non è la nostra, cioè o è nostro o non è nostra. Forse la vuole portare temporaneamente in Italia. Non so che cazzo vuole fare la Gioconda in Italia. Bah. La Mona Lisa è in Francia. È arrivato il momento di farla rientrare in Italia. Ho parlato con i francesi e ho preso accordi perché ritorni da noi ciò che è nostro, perché le cose bisogna saperle chiedere. Io so farlo. State zitti, coglioni, che sto parlando! Ma con chi ce l'aveva, scusa? Boh, con la gente intorno. Ma poi con chi ha parlato? Cioè, Vittorio, con chi hai parlato? Cioè, ho parlato in Francia. Con qualcuno, con chi hai parlato? Avrei parlato con qualche stronzo lì del Louvre, qualche amico tuo, qualche critico d'arte, ma non è che. Non, certo, non hai parlato con qualcuno che decide. Adesso non ce la venire a raccontare. Non hai parlato con qualcuno che decide, su. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni! Io non ne posso più di sentire certe cose da parte dei signori animalisti, nazi vegani o quant'altro. Veramente non ne posso più. Vorrei che tutto scomparisse, che tutta questa polemica innescata anche da me sprofondasse nel nulla. Ogni volta mi viene quasi il rigetto quando sento certe cose. Per esempio ancora Daniela Martani, giustamente oggi Facci ha scritto una cosa formidabile, devo dire formidabile. Ha detto io me la farei, ha detto. Così ha scritto, sì. Facci ha detto io sinceramente me la farei, cioè me la scoperei la Martani. Lui l'ha detto però, no, sì, questo aspetti, non ha nulla a che vedere col veganesimo. No, ha detto questo, un'altra no? cosa. Ha detto il motivo per cui questa signora, questa ragazza è presente sulle reti televisive italiane è perché è bella, è perché è una ragazza piacente. Molti uomini vorrebbero vederla in orizzontale. Io compreso, dice Zio Facci, capito? Ma questo non nonostante lo so, quello che dice, nonostante quello che dice, è presente nel mondo radio televisivo italiano in quanto figa. E lui ha detto io sinceramente me la farei. Questo dice lui, non è che l'ho detto io, poi sono sempre io quello estremo. Lo dice il signor Filippo Facci. No, per carità, e devo dire la verità, ha ragione, cioè, in parte ha anche ragione. Per esempio, quando uno dice, signora Martani, che lei ha preso però scusa, non è che uno invita un ospite perché poi lo vede orizzontale, cioè non è che io adesso stasera ho invitato Friedman e me lo immagino orizzontale, me lo immagino né Cofferati né Brunetta ieri, cioè beh, non è che quando ma qualche femmina, capito, qualche figa non la inviti mai? Qualcuno è, non mai, ma qualcuno. Io devo fare però la hai nominato tre persone. No, dico Cofferati, devo fare la Friedman televisione. E Brunetta. No, ho detto era per dire che quando uno ospita con l'estintore. Non è che quando uno ospita per dire, una persona, ma sì, va benissimo. Ma quando no, uno io ospita, sto riprendendo il discorso del sì, zio no, Facci, no, non ecco, ho fatto io. Sto seguendo, ma figuriamoci, io sto seguendo. Tu dici non è l'unico criterio. Però nel caso della Martani potrebbe esserlo. Però lo capisco Facci, quindi scala le montagne, vuole scalare la Martani, va benissimo. Dice la Martani che ha portato a casa un cucciolo di piccione ferito. Di piccione. Guarda, il piccione fa schifo il piccione. Senti. Piccione è orripilante. Senti, a me lo dici. No, senti. Mi ha scagazzato tutto il mio balcone il piccione. I piccioni vanno, adesso vanno presi a, come diceva quello no, là dal balcone, vanno presi. Piccioni vanno a messi pistolettate, quelle sai, con, sì, con, no, no, con piccioni i pallini vanno, quelli. Vanno eliminati i piccioni. Almeno dal mio balcone vanno eliminati. che per terra in realtà c'era una cassettina della frutta con dentro un cucciolo di piccione. Beh, era inerme, fermo, non si muoveva, poverino, quindi io l'ho preso e l'ho portato al veterinario. Purtroppo aveva due ferite abbastanza profonde all'altezza delle ali. E tu hai fatto una cosa bellissima, perché hai postato una foto. L'ho portato a casa, l'ho messo in uno scatolone e dentro lo scatolone gli ho messo un pupazzo. Un pupazzo con il piccione. Poi dice che ha pregato e si è ripreso, ha pregato e si è ripreso, vabbè. Lui subito, appena io ho messo il pupazzo, gli si è avvicinato e gli si è messo addosso. Perché poverino evidentemente si sentiva solo e ha trovato conforto nel pupazzo. Io stesso ho pregato, diciamo, buddista per lui e affinché si salvasse e niente, quindi l'ho monitorato praticamente tutta la notte perché c'avevo il terrore chiaramente che morisse. E invece vivo e vegeto, poi la mattina dopo l'ho portato da lì. Allora una cosa... In realtà. Pure buddista, ha pregato, cioè, ha fatto il rito buddista di fronte al piccione che si è ripreso, capito? Ma piccione, che dico, ma dalla mattina alla sera uno c'ha qualcosa da fare, un lavoro, una professione, cioè uno che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera prende i piccioni quasi morti, li mette dentro una scatoletta, gli mette un cucciolo accanto e poi si mette a pregare, fa blam blam blam blam. Beh, buddismo. Blam, blam, blam, sì, come cazzo è quella roba lì, quella così, beh, no? Insomma, più complesso, lo so, sì, però il suono quando sento io la mattina sempre nel mio palazzo. E poi si è ripreso il piccione. No, il piccione si sarà ripreso evidentemente perché la ferita non era grave, no? Altrimenti sarebbe morto. Non perché sente la preghiera buddista dietro e gli metti il cucciolo vicino, un pupazzo vicino. Ci sarà un motivo tecnico, scientifico, no? Non è che il piccione si riprende perché sente. Non lo so adesso, dai, perché su. Fai così bla bla dai, bla bla. Dai, su. Ah, Massimo, provincia di Napoli, dai, cominciamo, vai, apriamo, Massimo. Ciao, sono Massimo da Napoli, non provincia di Napoli. Volevo intervenire per ieri veramente, per quanto riguarda quella discussione sulla Turner che è stata rapinata e che a vuoi, Napoli. Sempre le stesse storie. Io mica sono stato rapinato io, è stata rapinata la Turner. Sì, ma pure tu ieri dicevi che Napoli c'ha un altissimo tasso di criminalità. Beh, onestamente, cioè, io vorrei capire le statistiche come si fanno. Ma l'hai vista la statistica della qualità della vita o no? Ogni tanto quando esce dalla provincia. No, io veramente la qualità della vita, sinceramente, personalmente ho vissuto a Glasgow, ho vissuto a Dublino, ho vissuto a Londra, a Ipswich, vado sempre in giro, ieri sono stato a Roma, sinceramente Roma la considero molto, ma molto peggio di Napoli. Cioè, Massimo, il punto è un altro, cos'è che non va nel discorso sulla Porsche, l'orologio che fuori? È una cretina, è una cretina. Io sono stato il primo a dirlo, sono stato il primo. Qualsiasi città, metropoli. Se vai al centro di Milano con la Porsche scoperta e con l'orologio di fuori non ti succede un cazzo, diciamola tutta, dai. Amico mio, è così, la realtà è questa, dai. Senti una cosa. Se vai al centro di Milano con una Porsche decappottabile e con il Patek Philippe fuori, adesso non mi voglio ripetere perché sennò diciamo sempre le stesse cose. Sì, vabbè, pure non ti succede nulla, non succede, ma è così, non succede niente. Ma può capitare, gli è capitato tutto, può capitare, ma può capitare anche Milano. Può capitare Milano. Io sono vissuto che c'entra che può capitare dove non ci potevi accostare. Ma questo non c'è dubbio, sto dicendo semplicemente che questa qua dopo 3 minuti arriva a Napoli e viene aggredita. Ma poi tutto questo sensazionalismo su Napoli, sensazionalismo, ma è stata questa che ha scritto la sindaco, mica... Ma se succede in qualsiasi parte del mondo, ma perché non succede che qualcuno scrive al sindaco? Cioè se uno viene derubato, un magnate, uno importante viene derubato a Milano, perché non è successa questa cosa che scrive a Pisapia, che scrive a questo? Non succede. Non succede che i giocatori gli rubano l'orologio a Milano. Ma perché, capito? Non è successo pure a Milano che gli hanno rapinato le case le rapinano lo stesso dappertutto. Gianluca, guarda, Firenze, è vai. Anche a Milano, Gianluca, anche Firenze. A me la difesa a ogni costo di un luogo mi dà un fastidio enorme. Gianluca da Firenze, vai. Ciao ragazzi. Allora, no, vi racconto un episodio. Io nel 2000 facevo uno stage di marketing a Atlanta e una sera a cena in un gruppo di italoamericani. Vai veloce, vai. Incontro una ragazza, insomma, una certa Angela, e mi ricordo, esordisce con ah, me l'Italia mi sta stretta, sono venuta via qua a studiare, era andata a studiare architettura Atlanta, che sì, io ma non Gianluca, ho idea io che... ti ho detto di andare, di essere un po' breve perché dobbiamo bene, chiudere, insomma, che cosa vuoi dire? Era lei, no? Era la Turner. La Turner, sì, che ho scoperto dopo. E allora hai conosciuto la Turner, chi se ne frega? Beh, ce lo racconti dopo, ci sarà un motivo per cui ci stai dicendo questa cosa, no? Perché se ci stai dicendo che hai conosciuto la Turner, chi se ne fotte? Siete veramente pietosi. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. House in Hampstead, Fallout Bunker, done everything we could. Quando chiama Donato, anche con 40 gradi all'ombra, bisogna assolutamente serrare i finestrini, alzare il volume e calarsi in un religiosissimo silenzio in attesa del maestro. Ma lo sai che il tuo amico Bitonci alla fine non ha avuto una buona idea? No, ne ha combinata un'altra delle sue, vuoi dire? No, ma ha vietato l'ingresso ai giornalisti in comune. Ma chi se ne frega? Non me ne frega nulla di questa roba qua. Ha vietato l'ingresso ai giornalisti in comune. Ma chi se ne frega? Ma il mondo non gira intorno ai giornalisti. Non gira intorno ai giornalisti. Ho capito, ma l'accesso in comune è vietato. Va bene, pazienza. Vietato. Beh, ma tu vuoi che ti dica che ha fatto una cazzata? Ha fatto una cazzata, benissimo. Oh, benissimo. Ma chi se ne frega? Il mondo non gira intorno ai giornalisti. Il mondo reale non gira intorno alla libera informazione, però alla libera informazione negare l'accesso non si capisce perché. Ha negato l'accesso, ma non è che uno non può entrare. Avrà negato l'accesso a una sala, a una conferenza, non so a che cazzo. Però ne ha combinata una giusta, pare. I vigili urbani a Padova hanno sorpreso un cittadino rumeno che stava pisciando all'angolo di una piazza. Un cittadino, in questo caso rumeno, potrebbe essere chiunque, certo. Comunque, poteva essere rumeno. Anche un ragazzotto che usciva da una discoteca. Però era rumeno. Benissimo. Ha pisciato all'angolo di una piazza. Ecco, e gli hanno fatto una multa da 500 euro che però può essere commutata in 50 ore di lavoro di pubblica utilità per la città. Va bene, benissimo. Che mi sembra molto buono. Questo è molto buono. Direi, come suggerisce, credo, qualche quotidiano, che si potrebbe trasformare questa cosa in un vantaggio, per esempio, per Roma. Cioè tutti quelli che non pagano le multe, tutti quelli che imbrattano la città, che pisciano per strada, eccetera. Invece ma di fare... io non vedo gente che piscia per strada. Roma è piena di gente che piscia per strada. Ah, pieno. Ma sì, la stazione Termini, in vari posti di Roma c'è gente che piscia tranquillo. Io un sacco di volte che vado a Roma vedo gente che piscia per strada. Che ti devo dire? Cioè, spesso extracomunitari, barboni, eccetera. Ma comunque lasciamo perdere questo. Invece di fare le multe, fare i lavori socialmente utili per tappare le buche della città sarebbe straordinario, per fare altre cose utili alla città, togliere la monnezza per strada, eccetera, eccetera. Potrebbe essere praticamente una sorta di pipì tappa buche, sarebbe molto meraviglioso. Buono. Molto buono. Però quando leggi certe cose significa che veramente è tutto finito e c'è poco da recuperare. Per esempio, caro Parenzo, succede in vicino Vicenza. Viene scoperto come finto profugo, sto parlando di un nigeriano che arriva in Italia con un barcone alla fine del 2014. Le classiche notizie da Radio Padania. La fotografia di come funzionano le cose. La fotografia di come funzionano le cose. Va bene, andiamo avanti. Questo signore nigeriano arriva in Italia, no? Come richiedente asilo. Centri di accoglienza, soldi spesi, eccetera. Va tutto bene fino adesso, va tutto male, però diciamo che va tutto bene. Centri di accoglienza, tutto quanto, fa la sua domanda, non si, nessuno lo riconosce come asilo, dice no, sei venuto qui ma non sei un profugo, cioè non scappi da nessuna guerra, eccetera, no, eccetera. No. Cosa succede? Cosa succede? Questo fa appello. Questo fa, lo sai quando lo fissano l'appello? Quando? Nel tra 2000, un anno. Nel 2020. Ecco, benissimo. Nel due, ma benissimo cosa? Nel no, ha fatto 2020. Bene a fare appello. Cosa deve fare? Ha fatto bene a fare appello. No, ha fatto male. Questi... L'appello non dovrebbe esistere, innanzitutto. Vabbè, l'appello non dovrebbe esistere. Non è, questa è la, va bene, ma questo oggi esiste. E quello ha usato questa cosa e ha fatto appello. L'appello poi nel 2020. Nel frattempo, fa il cazzo che vuole. Ah, questo è sicuro. Fa il cazzo che gli ma pare. Ma fa benissimo. Magari a fare spaccia. Quello che vuole. Magari spaccia, come è successo. Sì, ma è evidente che se le cose stanno così, fa bene a fare a lui a fare appello. Cosa deve fare? Ma non cioè, deve fare. Dovrebbe essere proibito l'appello. Proibito l'appello. Se tu fai una domanda e te la bocciano, cioè ti dicono non sei profugo, a che cosa cazzo ti devi appellare? E poi soprattutto non è che decidono in due mesi, nel 2020 gliel'hanno messo. Questo ma com'è possibile amministrare un paese in questo modo? Com'è possibile organizzare? Poi uno dice che vuole l'Australia, ti credo che vuole l'Australia. Pure il quello che si è candidato alla guida del Partito Conservatore in Gran Bretagna dice che c'è il modello australiano per gli immigrati. Ma ti credo, ma di fronte a questa vergogna, di fronte a questo sfascio, di fronte a persone che arrivano e non sai che cazzo fanno, cioè non sai che fine fanno, sei profugo? No, non sei profugo, faccio appello nel 2020. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Viva l'Australia! Cioè, di fronte al sindaco di Roma che fa perdere tempo ai suoi impiegati, che poveracci, siccome lei decide, non si capisce perché preda di quale boldrinizzazione, che non deve essere più chiamato sindaco e nei documenti ufficiali bisogna sostituire a penna la parola la sindaca. E fa perdere tempo, per carità, poi ne hanno di tempo a bizzeffe, ai burocrati, ai impiegati comunali, no, a fare a penna, non so se hai letto questa cosa, a fare a penna la sindaca, sì, la sì, sindaca visto, a penna, ma questa è l'Italia. Ma non c'è niente da fare, è tutto irrecuperabile, capito? È tutto irrecuperabile, tutto, tutto. Pasquale da Milano, dai Pasquale, che mi devi dire di fronte a queste cose? Che mi devi dire? Dimmi Pasquale. Dico che sei anche tu irrecuperabile. Ma io sono già irrecuperabile, ma quello si sa, ma non è questo il punto, capisci? No, che non è questo. Dirti. Non è questo, no, non mi fare piangere. Il punto è proprio questo, perché anche tu parli per luoghi comuni. Ma per di cosa parli? Per esempio, fammi un esempio, dai. Di tante fammi. Cose. Allora, tante cose, fammene uno, dai, amico mio. Dai. Gli orologi. Sì, gli hanno orologi. Fregato due orologi qui a Milano, in pieno centro. Sì, va bene. Rubano anche in altre parti d'Italia, lo sappiamo questa roba qua. La sappiamo no, già. A Milano, la sappiamo. Tu hai detto che a Milano non capiterebbe. No, cioè, ma io se uno arriva a Milano e va con la Porsche a Milano, con la Porsche scoperchiata, sì, con l'orologio di fuori, la maggior parte delle volte non ti succede un cazzo. Se no, tu vai detto, nelle stesse con condizioni a Napoli, è molto probabile che ti succeda qualcosa. Vabbè. Ma mi è successo. Vabbè, ti è successo e vabbè, sarà un caso tra i tanti in cui ti è successo, va bene. Secondo, sotto casa, dopo sotto casa. Sei mesi, mi hanno fregato un altro patente, non vabbè, dalla Porsche, sarai, ma dalla macchina normale. Sarai sfigato, amico mio, che ti devo dire? Sono sfigato. Sei parlato sfigato, con la polizia, sì. Parlato con i carabinieri, sanno benissimo quello che succede, non gliene frega un cazzo a nessuno di vabbè, questo. D'accordo. Ma sai perché? Dimmi. Perché tanto gli orologi sono dei ricchi, mica sono dei poveri. No, e tu sarai ricco, dunque che te frega te, te lo ricompri? No, sono ricco, sto parlando, ma vedi che continua a non capire, sto parlando esattamente non per lui i comuni, sto dicendo che tanto non frega nessuno tutelarsi. Altra storia, quello che dicevi prima di stare strada, se vieni sotto casa mia in piazza del Tricolore tutti i giorni a tutte le ore trovi gente che piscia per strada, assolutamente, perché c'è vicino c'è la Caritas, vicino c'è la mensa della Caritas, Caritas e c'è la gente che c'è un motivo strada. Ma non sto e dicendo quindi, che non piscia, ho capito, ma non tu sto non dicendo puoi vai vicino allo stadio San Siro, vai vicino a San Siro e trovi la gente che fa la pipì dopo la partita per strada. Va uguale, bene, ciao Michele Roma, vai Michele Roma. Oh, ciao Cruciani, grandissimo. Dimmi. Parezzo. Senti, no, su Napoli giusto una parentesi, cioè la lettera che ha scritto al sindaco, quella numero 2 di Google, di Yahoo, quella che è, in realtà è una CNN, lettera che secondo me fa abbastanza riflettere, perché lei semplicemente dice: a me farebbe piacere poter girare a Napoli con Rolex, con la Porsche, con la Ferrari, sì, quindi sì. Mi dica quando tornare, quando posso tornare, perché anche New York era così 20 anni fa, insomma, quindi mi sembra che a me ha fatto riflettere abbastanza. sbagliato. No, no, ma infatti, secondo me ha sbagliato all'inizio, dopodiché ha fatto questa lettera. Poi un ascoltatore mi ha scritto prima: due esempi che Napoli non è sicura. Alla reception degli hotel di medio e alto livello consigliano di lasciare in camera Rolex, si esce a cena e di prendere il taxi, cosa che a Milano, a Roma non te lo dico. Nulla che mi ha scritto, magari non è vero, non lo so. Alla reception degli alberghi di medio e alto livello consiglio di lasciare in camera Rolex, se si esce a cena e di prendere il taxi. Europcar, all'atto del rilascio di una vettura, informa che non è possibile avere assicurazione completa furto e ti fanno firmare documento per presa visione. Questa è la situazione descritta da un ascoltatore. Se voi volete dire che è uguale anche ad altre città, ditelo pure, ma non è così, ma non è niente contro Napoli, a favore di Napoli, è la realtà, la realtà. Se voi dite che invece è un altro mondo, che è come andare a Milano, che è come andare a Torino, va bene, ditelo pure, ma la realtà non è questa. Chi c'è in onda? Non ho capito. Michele. Chi c'è? Sono io. Dimmi, dai. Sono Michele. Ma io chiamavo per un'altra cosa, Cruciani. Senti che idea che mi è venuta. Sì. Sia questa cosa dei nazi vegani, dei cacciatori, dei pescatori. L'idea me l'hai data tu. Cioè, secondo me, no, in Italia, però senti se sei d'accordo, dimmi, con Parenze, se metterla. In Italia i buddisti italiani, secondo me non sono così buoni come i buddisti nel resto del mondo. Cioè, mi spiego. Secondo me al buddismo, no, in Italia, si danno un po' quelli, sai, quelli che hanno un sacco di problemi, che fanno di male i buddisti, scusa. No, proprio quella la cosa, cioè, fondamentalmente fanno di male niente a nessuno. E allora però, perché? Però secondo me se tu fai una campagna contro i buddisti, vedi che poi non sono così buoni quelli italiani come sembrano, perché... cioè vanno a fare buddismo, niang-yo, ma perché bisogna prendere in giro così le fedi degli altri? No, io non ho capito. No, ma che vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Io dico proprio questo. Vabbè, sono un po' rumorosi quando ce l'hai come vicini di casa. Che vuol dire rumorosi? Sono degli amici carissimi. Amico mio, se uno vicino. Sono tra le persone più pacifiche al mondo. Assolutamente. Ma hanno mai fatto una guerra ai buddisti, a nessuno. I buddisti veri, i buddisti che di Buddha, quelli che stanno in Tibet, quelli italiani sono che un'altra c'hanno? Cosa, sono dei rompipalle, capito? Che stanno là, c'hanno un sacco di problemi psicologici, molti sono vegani, nazi vegani, fidati. Sì, vabbè, ho capito, ma adesso, amico mio, ne conosco tanti, ne conosco uno in particolare, non succede un cazzo. Quando ce l'hai vicini di casa, o addirittura in casa, la tua compagna, la tua che improvvisamente diventa buddista, è un incubo. Proprio. Beh, vicino di casa, uno che la mattina... Allora, io adesso ti racconto questo, non volevo raccontartela, ma te la racconto. Aspetta però, fermo, me lo racconti dopo, fermo. Più Parenzo, meno Cruciani. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Voi cialtroni lavativi, adesso ve ne andrete in vacanza, io andrò in crisi di astinenza. Ma come metadone ho già preparato 3 o 4 mesi di podcast per la Zanzara. Eccoci qui, Parenzo, con il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Senti come ce l'hanno con te gli ascoltatori, Varin, tutti, scatenati, senti. Ascolta, io ho ascoltato la gabbia e c'era il tuo amico Parenzo. E diciamo nemico più che amico, sì. C'era il tuo amico Parenzo, io se avessi potuto entrare alla televisione a prenderlo l'avrei ammazzato. Cioè, ma si può, quello lì è un figlio di puttana. Guarda oltre il mondo. Capito o no? Ecco. Hanno argomenti senti, solidi. Senti questo. Hanno argomenti senti, solidi. Senti quest'altro, senti. Sentiamo. Lo stesso, credo che sia lo stesso. Ma che tuo madre, poverina, se sapeva di mettere al mondo un celebro leso del genere. Ma poi serve, Parenzo, serve perché tira sull'audience, perché la gente si incazza. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Figlia della libertà. Servi di Roma fuori. Senti ancora ascoltatori col direttore Morelli, senti. Padania bella e libera, tanto quelli lì che vogliono soddisfare i loro istinti animaleschi là in Trentino, no? Allora, un'idea bellissima, li prendiamo, li portiamo a casa di Parenzo, glieli mettiamo nel letto insieme a lui, tanto che lui gli piace stare insieme ai suoi amici Baluba, così fanno di tutto di più, tutte delle belle orgie. Loro si soddisfano perché si soddisfano, questo è contento che è andato insieme ai suoi amici e tutto si è risolto, che dici? Il popolo nella tempesta, come una madre e il figlio, caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme, sfonda il muro di onnipotenza. Verranno probabilmente a prendere tutte le elettroiette che ci sono in giro e gliele daranno lì a loro, quelle lì che vanno lì a battere per strada. Ciao, non sono tedesche purtroppo, Servi di Roma fuori, senza dubbi neri. Però basta con sta storia che arrivano dalla guerra. Non sono né gente che scappa dalla guerra, vengono qui a grattarsi le pali, io li vedo. Questa è stupenda, questa è stupenda. Questa la è stupenda. La madama, l'elegantissima madama. Senti ancora, senti. Buongiorno, volevo dire, una formazione maoista romana è la comunità di Sant'Egidio, quella fatta da preti e suore maoiste che importano i clandestini. Questa gente qua, io ho fatto la cattolica, avevo visto parecchi professoresse, soprattutto sono le donne, sono maoiste bolscevichiche e portano qua i neri africani perché li usano come schiavi per garantirsi sicurezza personale e entrate economiche personali. E la comunità di Sant'Egidio a Roma è una formazione maoista bolscevica. Padania bella e libera, guarda avanti. Sai che ho capito cosa serve Radio Padania? A cosa serve? Cioè, se uno ha ad esempio un problema in famiglia di qualcuno che magari sta male o qualche ritardato, qualcosa così, fa ascoltare Radio Padania, no? Sì, sì. E poi gli dicono: guarda, senti figlio mio, vedi, tu hai qualche problemino, sì, sicuramente, magari. Ma tu dici, improvvisamente uno si sente superiore, dici. Improvvisamente tu dici, cazzo, pensi che c'è gente peggio di te. Inizio a parlare, la dislessia finisce, i problemi di grafia, di scrittura finiscono, le sinapsi si riconnettono. No. Quindi viene usato come terapia per quelli che hanno qualche piccolo deficit mentale. Adesso ho capito. Cioè, tu dici quelli che hanno qualche piccolo deficit mentale ascoltano questa roba e dice: c'è gente che sta peggio di me. Sì, altrimenti non si spiega. Altrimenti non si spiega. Senti Varin. Sentiamo il professore. Gran parte di questi aspiranti profughi sono malati. Hanno la scabbia. Voi lo fareste il bagnetto vicino a uno di questi profughi? Si sta parlando, per chi non lo sapesse, di una grande schifo, di una, no, ma di una grande, ma che schifo. Bisogna dire a questo imbecille che la scabbia ai profughi passa con una doccia. Però è vero che qualcuno che viene qui coglione lui rimane, la scabbia passa, coglione uno rimane, questa è la differenza. Cioè la scabbia la curi. La coglionaggine no. Non è bello che questi ci abbiano la scabbia. Ti ho spiegato che la scabbia, i pidocchi eccetera passano. Ho capito, però non è bello. La coglionaggine resta. Comunque questi qua stanno parlando di un caso che è stato inventato dal giornale di Salvini, quello online, e che totalmente in realtà inventato, non esiste. È un caso che non esiste. L'hanno segnalato anche su Twitter, è una bufala assoluta. Sì, perché loro hanno detto: ecco questi profughi che vanno a Bormio, alle terme di Bormio a spese nostre. In realtà erano dei profughi, dei richiedenti asilo, su cui si potrebbe discutere fino all'infinito naturalmente, che hanno vinto una specie di biglietto premio per un concorso addirittura sul presepe. Cioè, non c'entra assolutamente nulla con le terme a spese nostre, con le terme di Bormio a spese nostre. Forse questi sono negretti che arrivano da zone impetuose dove bisogna scopare dalla mattina alla sera, fare figli come conigli, e quindi anche qui in Italia loro hanno questa programmazione, capisci? Per cui in Italia scopare, mangiare, scopare, non lavorare e ogni tanto un po' di terme. Varin. Il bello è che quando lo affronti, diciamo, faccia a faccia, Varin non ha tutta questa carica, No. Questa carica padana. No, sembra una persona anche normale, forse. Vai vedere le tue braccia possenti, a chi ti vuol fermare. Mauro Milano, vai. Sì, ciao. Dimmi, pronto? Dimmi. Sì, dimmi. Sì. Ma no, solo una cosa. Vi ascolto da tanto tempo, ogni tanto vorrei che ascoltasse un po' quello che dicono anche gli ascoltatori vostri. Scusa, non ho capito, ma siamo una trasmissione che è basata sull'intervento degli ascoltatori, sì. Adesso mi viene a dire che dobbiamo ascoltare. Sì, però non è, voglio dire, non è una radio locale dove invitate sempre le solite persone. Io voglio dire, non è una televisione privata dove voi chiamate solo veramente i soliti è una radio vostri. Privata. Ti voglio ma segnalare sì, che è una radio privata. Privata comunque. Però sempre sgarbi e quelli sono cazzi nostri, se non ti va quello che facciamo, cambi canale, non ci rompi i coglioni. No, ma certo, io voglio allora solo discutere. Ogni tanto ascoltateci, ascoltate la gente comune, quella che è. Parla, sei qui, parla. Uno più parla. Uno lo fa, due, sono d'accordissimo su quello che dite. Cioè, parla. Faccio un esempio. Chi ha vissuto nella periferia di Milano non è molto differente dalla periferia di Napoli, ecco, non è che possiamo sempre dire prova a vivere a Cesano Boscone, a Trezzano, a Corsico negli anni in cui c'erano 350 sorvegliati speciali, insomma non è che è tutto oro quello chi che dice, chi dice il contrario, scusa, stiamo parlando di un'altra cosa qui. Ma voi non dite il contrario, però tutto quello che dicono al di fuori di quello che dite voi non è vero, oppure ma chi ha detto che non è vero? Stai parlando pure tu addirittura, Giuseppe da Chieti, certo, dai. Giuseppe certo, da Chieti. Non è che io ciao, io ciao Mauro, te. Giuseppe da Chieti, dai. Cruciani, buonasera. Eccolo qua, Parenzo. Preparati. Eccolo qua, tu sei questo? Mezzo abruzzese, con due B, no, e due Z. Crociane. Giuseppe, dimmi, dai. Forza. Allora, c'è il momento dell'analfabetismo di ritorno. La prima cosa, ho lo spumante in fresco quando mandi a fanculo quel pezzo di merda comunista con quei nomini che c'hai a fianco e ti fa da veramente cocainomane, no, allora, comunista ecco, era comunista. Esatto, pezzo di merda, gliela faccio passare, non c'è problema. Comunista, non c'è problema. Di merda, di merda, non c'è problema. Sul cocainomane, amico mio, sì. Credo che vabbè, anche 20 non è giorni no, le verrà notificata non a casa dai, non è una bella volta, querela dai, per diffamazione la querela, dai, che sto perché accetto tutto ma cocainomane no, non è che ti ha detto assassino. Beh, però, siccome è un'accusa molto brutta e pesante no, brutta, perché è brutta. Non avendo io purtroppo per paura mai fatto uso di sostanze diverse. Vabbè, ma Giuseppe, dalla al di là di dire cocainomane a Parenzo. No, ma lui sì, adesso si prenderà la causa. Vabbè, d'accordo, si prenderà la causa. Giuseppe, allora dimmi che allora, vuoi. Allora, cioè, mo che ristrutturi lo studio, mo che va in ferie, no? Faccia fare un bel bagno con stalla. Stalla, a fianco, con una stalla, così ci metti il maiale che c'è a fianco. Sì, okay? Ma non ho capito niente, che cosa devo fare? Non ho capito che cosa devo fare. Niente. Ma quello andrà in vacanza per gli affari suoi, perché c'entra la stanza per il maiale. Ma va lei in ferie, no? Va in ferie, ma no? Se uno non ha niente da dire, perché chiama? Se uno non ha un cazzo da dire, perché è solo? Perché è solo? Sei una persona sola, sei una persona sola. Sì. Probabilmente è una persona sola, si hai ragione. Fai il giornalista serio, non fare il sociologo. Sei una persona sola, sì, sei una persona sola. Molto sola, poverino. Sei una persona molto sola, dai, molto sola. Fai il bravo. Sei una persona molto sola, ciao Giuseppe. Io spero che tu abbia qualcuno a casa che ti accolga, una famiglia, un fratello, una sorella, spero una moglie. Che tu abbia la moglie non credo. Da parte. La moglie non credo. Vabbè, adesso non lo puoi portare in tribunale, dai. Sicuramente. Dai. Allora, caro Parenzo, io pensavo che non ci si potesse stupire ancora oggi nel 2016, giugno 2016, per un nudo. Cioè per un pisello, ho capito nelle di quale pagine parli. Dei giornali. Cioè, di cosa stiamo parlando? Sì. Il prestigiosissimo quotidiano francese Le Monde. Adesso te lo pronuncio proprio così alla francese, bravo. Perché come sai, se c'è una cosa che so tu poche sai cose molto, molto bene il allora, francese. Il prestigioso molto. Quotidiano francese Le Monde, che cosa fa? Pubblica un'intervista al signor Rocco Siffredi. Sì. E pubblicando questa intervista ovviamente mette anche delle foto. Queste foto qui, giustamente secondo me, mette anche delle foto normali, belle, molto belle, le ho viste, eccetera. Sì. Però mette anche il pisello di Rocco Siffredi. Beh, è il suo strumento di lavoro, mi sembra no, giusto. No, ma mette anche il pisello. è successo un casino tremendo. C'è lettori indignati, discussioni, ma com'è possibile mettere il pisello nudo di Rocco Siffredi? Giustamente quelli del quotidiano Le Monde dice: Siffredi è dotato di uno strumento di lavoro di dimensioni titaniche, così ha scritto un signore dovendosi giustificare di fronte a queste polemiche che si sono scatenate in Francia, e ne ha fatto quasi un personaggio, cioè ha fatto del suo uccello quasi un personaggio. No, ma sono convinto che a far polemica siano stati i maschi francesi, perché ovviamente le mogli, corse in edicola, subito hanno detto: ma amore mio, no, ma di che stiamo parlando? Ma sai, fino ad oggi, ma di che cosa abbiamo parlato? Avrei fatto anch'io la stessa cosa, probabilmente. Comunque, bisognava mostrarlo, dice questo signore francese che ha dovuto giustificarsi. Sì, sì. Mostrare il fallo come ultimo tabù. Noi vogliamo infrangere questo tabù. Pensa come stanno sti francesi che devono infrangere. Poi basta andare su Google e fare pisello Siffredi e spunta fuori di tutto. Rocco, amico mio, Rocco, come stai? Oh, com'è che ogni volta che mi chiami si parla di sesso? Ma perché? Ha detto, però non è colpa mia, se ti chiamo, anche scusa. Parlare di Brexit, se vuoi. Brexit, ecco, come vedi? È uscita in Inghilterra, ragazzi. Ecco, ma come vedi la Brexit, ecco, tu? Questa è interessante. Alla grande, voglio vedere adesso questi superiori inglesi cosa ci insegnano. Adesso li voglio vedere. Ah, tu sei contro allora? Sei contro questa Brexit? Bravo, ma io sono un po' contro perché, ragazzi, oramai, dai. Cioè, voglio dire, sempre contro tendenza, si deve viaggiare a sinistra piuttosto che a destra, ce l'hanno più lungo di noi. Ma che significa? Cioè, sti inglesi, dici, basta con questa, basta con questa originalità inglese, eccetera. Comunque, hai fatto scoppiare casino pure in Francia, amico mio. No, ma in Francia mi fa piacere, perché i francesi sono libertini. Io sono uscito con un giornale uguale, fatto da Mondino qualche anno fa. Sì. Stessa storia, nudo interno, non hanno detto nulla. Credo che questo periodo, col fatto che vinceremo probabilmente l'europeo a casa loro, e poi aspetto che mi mette nudo, ma in erezione. Ah, ho capito. Allora, aspetta un attimo. Beh, cioè, facciamo una cosa: allora, se l'Italia, diciamo, non succede, ma se succede, se succede, vado nudo, mi metto nudo dove? Fai una cosa, fai una promessa. Nudo in erezione per sette, per il Corriere, l'inserto di sette. Bisogna lo devono fare, però. Bisogna vedere se lo fanno poi, eccetera. Se non fanno, mi ci metto da solo, mi faccio la cornice 7, mi scrivo sopra il Corriere e vado. Senti, ma com'è questo casino in Francia, semplicemente perché hanno fatto vedere il tuo pisello? Cioè, ma perché, come dice il grande Roberto D'Agostino, oramai l'unico tabù e ultimo tabù è il cazzo. Basta. Tu dici, perché l'ultimo tabù è quello? Ma sì, perché oramai, diciamo la verità, il sesso femminile, chiamiamola com'è, la figa viene messo ovunque e non desta più nessuno, anzi, simpatia e forse neanche più... neanche più tanto sconvolgimento. E invece il pisello nudo pisello ancora resta comunque quell'animale che ci ricorda il sesso, quella cosa che ci piace ma ci dà fastidio, quella cosa che ti ricorda l'animale che è in te, dai. Sì, e anche ho letto oggi che addirittura poi, passando gli anni, adesso non sarà il caso di Parenzo, no, forse sì, non lo so, la vediamo anche come una cosa quasi nemica, che ci dà fastidio, questa vescica insopportabile, eccetera. Cioè, per esempio, tu come la chiami? Cioè, hai un soprannome a quello che è il tuo oggetto di lavoro, al tuo monumento? Ma devo dirti la verità, dimmi, però il reale, sì. A me vedermelo moscio... mi dà un po' fastidio, ma non perché lo devo vedere duro, ma perché io sono abituato a vederlo duro. Cioè, vederlo giù così ti dà fastidio. Mi crea un po' di vecchiaia, mi crea un po' di. Veramente, di angoscia. Di quello che tu hai detto adesso a Parenzo, che non credo, però voglio dire, mi crea quella sorta di. Però vederlo poi in realtà. Almeno da quello che mi dicono alcune donne, amiche, dicono: Rocco, ma non ho capito, anche la donna. Vuole la sua, anche moscio è bello da vedere. Ma infatti, questa è la cosa. No, sì, ma sì. Infatti, pensa ad Andro Mercù, ad esempio, che non l'ha mai visto in erezione. Che è il nostro imitatore. Ma perché devi dire così? Perché Mercù, poverino, lo usa come spugnetta per occhiali, praticamente. E quindi, ha altre qualità straordinarie. Però lì, ma perché devi dare sempre questa idea? Perché dico che ci sono persone che convivono con questa cosa. Quindi, l'ottimo Andro, ad esempio, è un grandissimo imitatore. Ma sai che hanno scritto collega, su Le Monde che ha fatto? Secondo me, hanno peccato di nei numeri sono un po' andati. 1700 film e 6000, hai avuto 6000 partner in tutto, ma sono questo poche, non hai avuto 6000. Ma sicuramente nel lavoro ci sta, poi qualcosina nel privato l'ho fatto. Vabbè, anche qualcosina, però, diciamo, però in realtà sì, no, cioè, i quante numeri donne, sono più o meno quelli. Quante donne hai avuto in tutto? Se, hai fatto ma un calcolo? Se tu fai il calcolo tutto, dei film, tutto, metti, tutto. Metti 4-5 ragazze sempre, 3-4 diverse in ogni film, poi alcune sono state ripetute, alcuni film con tante partner. No, ma proprio tu... le singole partner che hai avuto, un calcolo che si può fare, quanto arriviamo? Ma come cazzo faccio a ricordarmi 32 anni di film? Ma come fa? Impossibile. Senti, ma tu non pensi, mai, non pensi mai alla pensione? Io la pensione non ci arrivo. Non ci arrivo, in che senso? Ma non ci arrivo, non credo di avere quella testa. Cioè, vecchio, non ti immagini vecchio? Non mi immagino vecchio, no, assolutamente no. Ho troppi problemi per la testa, troppa energia che continua. Tu lo sai che ultimamente mi alleno 5-6 ore al giorno in palestra, corro, va, perché ho dentro di me il fuoco continuo e purtroppo ci convivo. Cioè, tu dici che quando è che crepi? Dai, ti sei fatto una tua data, che ne so, 60, 62? Non lo so, quando sarà, ma sicuramente molto attivo. Però presto, non tardi, non ti immagini di arrivare a no, 70 no, anni? No, vecchio no, non mi ci immagino. Non ti immagini di arrivare. Anche perché ha detto Rocco è che il porno è una croce pesante da portare in questa intervista, perché poi non è sempre le solite il cose. Il porno come l'ho fatto io però. Cioè, capito, il Parenzo? Cioè, Rocco Siffredi io. Non è semplicemente l'intervista, quanto hai scopato, quanto non hai scopato, e mettilo da qui e mettilo da là. Porta con sé una responsabilità. Cioè, questa frase mi è piaciuta molto, questa frase che ha detto. Lo sai cos'è? Il porno all'abruzzese, quello è difficile, perché noi abruzzesi quando facciamo le cose le facciamo molto in fondo, le facciamo con molta professionalità, quindi quando tu dai il 110% ogni volta è normale che ti coinvolge, è normale che entri dentro un meccanismo, è normale che... E questa è, questa è la croce pesante da portare. No, ma lui sicuramente entra dentro, su questo non c'è dubbio. Ma che battuta del cazzo! No, che però devo dirti, la croce, tu lo sai, la mia croce è sempre stata il fatto che... tu lo sai, l'ho detto, l'ho ripetuto, il fatto di avere questa famiglia fantastica che altrimenti già saresti crepato, dai, su, che già. mi porta in una sorta di situazione mentale in cui non mi ci ritrovo, mi dicono ma io ogni tanto sono attirato verso il basso e loro mi riportano verso l'alto. Tu sei attirato dall'inferno, diciamo la verità, dal sesso in ogni modo, in ogni occasione, cioè the hell. Bravo. E mi piace, e la tua moglie ungherese, la tua moglie ungherese, i figli ti riportano verso il paradiso, guarda, la terra. Abbiamo festeggiato il compleanno di mia moglie proprio ieri sera, siamo usciti tutti e quattro, cena bellissima. Sì. Ogni volta li guardo e mi dico: ma che cazzo c'entro io con questi che però sono tutti perfetti? E il giorno dopo ricominci a trombare come una dannata. Che cazzo devi fare? Senti, ma però grazie a loro che forse sto ancora vivo. Ma le donne possono fare meno del sesso? Qualcuno ce l'ha detto l'altro giorno. Le donne possono fare a lungo meno del sesso. Tu ci credi a questa cosa? Sì. Ho conosciuto tante donne 2 anni, 1 anno, 3 anni. Ma no, ma dai. Sì, no. Cioè loro riescono, loro riescono. Le donne sì. Senti, tu sei mai stato con una suora? La verità, nient'altro che la verità. No, la verità solo nei film. Dai. Solo nei film. Sì, solo nei film. E con un'islamica? Con un'islamica col velo? Come islamica? Con un'islamica? Perché con l'islamica? Islamica senza velo, però. Islamica senza velo, che ci vuole. Islamica. Ma quando ti dice c'è una data di ritiro? Una data di ritiro? C'è una data? Una data precisa, ti sei messo in testa una data, basta, a un certo punto dici l'avevi già detto, poi invece non sei ritornato, ma una data c'è in testa o no? No. Ma non è la data, la data vera è quando riuscirò a combattere con me stesso, quella è la vera data, non di ritiro, di rientro, quando riesce il mio corpo a controllare la mia testa, che ho al contrario, la testa che controlla il corpo. Lo so, è così. Ma il porno star della nazionale italiana, secondo te, vedendolo in faccia, chi è il vero porno star? C'è uno che dice, cazzo, questo qua è il coso, chi è? Pelé? No. Ma Pelé piace molto a mia moglie, quindi ci potrebbe essere, Piace molto. L'ha guardata, ha detto ammazza però, Pelé. Oltretutto sta pure con un ungherese, eh? Sì, ho visto. Ma guarda, io personalmente penso che vuoi dire ai francesi? Zazà, più la faccia da maiale però, eh? Zazà, dove sta Zazà è quello più maiale. Senti, per chiudere, ai francesi, che gli vogliamo dire su sta cosa qua? Fatevi una ragione, sono fatto così. Ai francesi credo che siano cambiati un po', i francesi sono sempre stati avanti. Ma ste proteste che fanno, ste proteste che stanno facendo per il fatto che ti si vede il pisello sulle monde? Evidentemente cominciano ad avere problemi anche loro, prima erano molto libertini, ma non credo, io credo che sia più qualche persona che insomma l'ho scioccato, perché Le Monde è un giornale più popolare. Sì, ma è meno popolare di altri, in realtà, un po' più chic, dunque sì, uno però non si però tu pensa dall'altro lato, tu compri il giornale, ti esce l'inserto, lo apri, appunto, e non sai che si frede il nudo, boom, esce fuori nudo. Certo. Che giornale ho comprato? Ciao Rocco, allora, a presto, ciao. Ciao. Pronto il telefono amico? Ah, è la Zazzara. Vabbè, è uguale. La Zanzara. Cruciani, sto per andare a un appuntamento, diciamo, galante, no? E mi sono appena fatta il bidet nel lavandino dell'ufficio. Beh, siamo al top. Sono al mare in vacanza e davanti a me è una donna stupenda che sta prendendo il sole. Io me la immagino mentre fa la pipì sotto la doccia. Non ero così una volta, non ero così, aiutatemi. Voglio disintossicarmi. Cruciani, il mio ragazzo non mi fa ascoltare la Zanzara. Adesso gli piscio nel lavandino. Allora, c'è uno che mi manda continuamente dei messaggi, Parenzo, l'ultimo credo di qualche giorno fa, che recita in questo modo, più o meno sono tutti simili, credo che sia una specie di estremista vegano, eccetera, eccetera. L'ultimo è questo: Cruciani, sei una testa di cazzo, non esiste altra definizione, vai a fare in culo. Siccome è il centesimo messaggio che manda, adesso provo a rompergli i coglioni io, dopo che mi ha rotto i coglioni lui per un mese, per due mesi. Pronto? Sì. Com'è che mi hai definito, scusa? Ma chi è? No, com'è che mi hai definito? Sei una testa di... Ma chi è? Ma no, chi è? Come mi hai ma definito? Sei una testa di... Ma chi sei? Sei una testa di... Senti, ma hai rotto i coglioni. Com'è che hai detto? Eh beh, c'ha ragione. Eh no, amico mio, non è che per un mese mi puoi rompere i coglioni con i messaggi, eccetera, e poi dici chi sei, non mi rompere i coglioni, eh. E poi quell'altro che gli dà ragione, dai, richiamate. Pronto? Oh, eccolo qua. Chi è? Oh, chi è? Finalmente, chi è? Finalmente. Sono Cruciani, ciao, oh, ciao. Che oh, bravo. Ecco, finalmente. Cruciani, com'è che mi hai definito, scusa? Una testa di cazzo. Oh, benissimo. Vediamo un po', testa di cazzo. Perché testa di cazzo? Ah, perché tu sei un grandissimo. Cosa, testa di cazzo? Mistificatore. Ah, mistificatore. Sei uno che fa avanti spettacolo. Tu bello, bellissimo la va spettacolo, non è male però la cosa, poi tu che cosa lo fai tu la va spettacolo su chi non può difendersi, quindi sei proprio una e chi vera chi una vera su chi non può difendersi. E chi sarebbero questi animali? Ah, cioè gli animali si rendono conto che io faccio a spettacolo su di loro. Certamente, perché beh, tu vedi, questo... tu sei uno che proprio della vita non ha capito nulla. Ah, beh, certo. Non ha capito scusi. Nulla, non ha capito un cazzo della vita. Professore. Non sai che cosa vuol dire rispetto. E Parenzo invece? E Parenzo invece? Ma Parenzo, guarda, a me non mi interessa proprio. No. Io voglio solo dirti che tu sei veramente... sei proprio ma tu guarda, sei veramente un essere immondo. Immondo. Sto facendo il cane che commenta la trasmissione. Vabbè, guarda. No, non ho capito bene. Non ho capito. Te la sai prendere solo con chi? Non ho capito. Te la sai prendere solo con chi non può difendersi. Ah, sei bene. Un pigliato. Scusa, mi presenti sei qualcuno di questi animali che se la sono sei presa per quello che dico? Ma no, ma tu non rispetti la vita degli altri. No, ma la vita... la tua esistenza miserabile sull'abuso e sul sopruso. Questo sei. Esistenza ricordati, miserabile può darsi, quello ti posso anche dare ragione, l'esistenza miserabile. Devi considerare, Parenzo, che questo signore, dice che noi facciamo agli animali quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei. Esattamente, ma che cazzo dice? Ma che cazzo dice? Ma che dice? Che paragoni fa? Sciocco, sciocco, sciocco, sei stupido come un coniglio, come un coniglio. Tu guarda, tu stai solo a offendere perché non hai argomenti. Ma come si fa a paragonare la Shoah i 6 milioni di ebrei alla ma che dice? Non hai argomenti perché lei non ha argomenti, lei ha follie, no argomenti. Ah, perché quello sarebbe un argomento? Ah, perché questo sarebbe un argomento? Se tu fossi nato maiale avresti sicuramente pensato in modo differente. Intanto differente. Al massimo sarei nato volpe, al massimo anche tu maiale sarà nato lei in un'altra vita. Com'è scusa, fammi capire bene, antropocentrista e specista. Esattamente. Sì. Androcentrista. Che Andro Mercù al centro. No, androcentrista. No, mi spiace. Andro Mercù. Andro Mercù, centrista. Un spettacolo sulla vita di chi non può difendersi, ma tanto no, ma io voglio che tu mi presenti qualche animale. Voglio che tu mi presenti qualche. Siete destinati a soccombere. Beh, sì, a morire dobbiamo morire tutti. No, ma la rivoluzione è in atto. C'è una rivoluzione per i diritti di chi non ha voce. E che succede quando noi soccombiamo? Non ho capito. Ma lo vedete? Cioè, lo vedete no, ma il futuro, com'è ma il futuro? Voi non pensate alle conseguenze del vostro scellerato stile di vita. Non ci pensate perché siete degli No, ma tu come vedi il futuro? Non è il futuro, se non si cambia registro, è destinato a scomparire. Cioè l'uomo è destinato a scomparire? Assolutamente sì. Ma forse è anche un bene, sì. No? Forse è un bene che si è destinato. Ma guarda, è certo, sotto certi aspetti può essere anche un bene, però non è che... Beh, certo, non c'è dubbio. Noi non siamo dei... fascisti, al contrario di voi che vivete fregandovene di tutte le ma noi le chi cause, poi tu di chi fai parte di quale gruppo fai parte non ho capito no, noi non facciamo io non faccio parte della di grande gruppo. Famiglia vegana diciamo no, no? Noi, certamente famiglia. Ma non è noi non siamo io non mi definisco vegano mi definisco una persona che rispetta la vita degli altri sì è molto differente però io voglio che tu mi presenti Leonardo da Vinci nel 1500 che aridaglio questo Leonardo da Vinci questo, Leonardo ancora. Da Vinci sì. Ha detto la seguente frase non mangio niente che abbia un cuore. Quindi questo sì. Dovrebbe già far capire. Sai che il cuore non è male quando lo mangi? Il cuore non è male. Vabbè, ma mai mangiato. Puoi solo provocare. No, ma anche il fegato, anche il fegato. Ma dire in faccia. E perché che fai? Mi picchi? Che fai? Ma no, ti tratto come trattano gli animali. E cioè come mi tratti? Come mi tratti? Gli animali come degli oggetti e me l'hai trattato come un oggetto. E che fai? Mi uccidi? No, ti tratto come un oggetto. E cioè? Patire. Tu dovresti patire quello che no ma è interessante questo cioè gli animali cioè, tu... dovresti patire quello che stanno adesso cioè patire, tu ti auguri la mia sofferenza stanno... ti auguri la mia sofferenza no, io ti faccio provare no ci mancherebbe non è che te la auguro Io ti vorrei far provare sulla tua pelle quello che stanno facendo appunto che stanno nel cioè tu vorresti che io soffrissi come gli animali che fossi tagliato scusa. Che ne so non ho capito scusa cioè tu vorresti che io fossi tagliato in pratica che ne so affettato no, tagliato macellato ma no perché tu non fai parte tu sei nato homo come si dice homo sapiens dovresti essere un homo sapiens e invece non sono un homo sapiens in realtà non lo sei perché sei molto poco sapiens perché stai facendo del male al mondo ma io può darsi che faccia male al mondo ma non capisco tu mi devi presentare un animale che si è offeso un animale ma che c'entra ma gli animali sono hanno, ma presentami hanno un animale che dice mi ma sento offeso hanno diritto alla vita e alla libertà lo sai dove sì. Finisce la tua libera scelta sì, sì. Lo sai dove finisce la tua dove finisce? Scelta, spiegamelo, Crociani. Sì, spiegamelo. Dove inizia il diritto alla vita e alla libertà di qualcuno. Il diritto alla vita, come diritto? Il diritto alla vita, la vita del diritto e la vita del cane. I cani della Corte Costituzionale. Aspetta. Una massa cefalica che evidentemente non ti permette di elaborare simili pensieri. No, è no. Tutto qui il discorso. No, ma certo, Crociani, non c'è... Tu hai una dotazione intellettiva che effettivamente, evidentemente, beh, non c'è dubbio. È sicuramente, però tu, è sicuramente inferiore. Tu vuoi che io faccia la fine? Vuoi che faccia la fine di un animale? Io ti auguro di provare sulla tua pelle. Appunto, la sofferenza. Oh, benissimo. La abbiamo... sofferenza. La sofferenza. Ti auguro di. Vabbè, la sofferenza. Ma la sofferenza. Dei macellai, che pensi dei macellai tu? Ma i macellai, guarda, che cosa vuoi pensare dei macellai? Dimmelo. Si devono redimere. Redimere. Sì, assolutamente. Redimere. Fanno, facciamo una preghiera per il macellaio, dai. Non è un lavoro. Non è un lavoro, no. Non è un crimine, è un assassinio. La sofferenza degli altri sul terrore altrui non è. Preghiamo insieme lavoro. Per i macellai. Poi anche quella cosa bianca, Crociani, che quel camice tu, bianco. Preghiamo insieme per i macellai. Preghiamo insieme. Tu prendi in giro esseri che non possono difendersi. Ma presentamene uno che prende in giro, amico mio. Preghiamo per i macellai. Ciao, ciao, preghiamo per i macellai. Ciao, preghiamo, preghiamo. Ciao, ciao, ciao. Oh ragazzi, che fatica ormai con questi, faccio una fatica terribile, guarda, una fatica terribile, non dovrei chiamarli più, solo che poi mi affascina il punto in cui si può arrivare, capito? Il macellaio non è un mestiere, io abbraccio tutti i miei amici macellai, uno l'altro giorno che mi ha mandato delle foto meravigliose, un ragazzo che oggi mi ha scritto una cosa bellissima mandandomi... mi ha detto: mio padre è un commerciante di carni, gli hanno rotto i coglioni per anni, gli animalisti eccetera eccetera, guarda che cose meravigliose che fa, mi ha mandato una serie di foto pazzesche di questo di come preparano le carni, vi ascolto sempre, mio padre pure vi ascolta sempre, grandissimo, un commerciante di carne, e questo signore insieme ad altri vorrebbero eliminare questa gente oppure rieducarla, mandate a fare in culo, va. Brucida. La zanzara. Io sono contrario alle case chiuse. Le prostitute le voglio per strada. Crociani, dì ai tuoi radioascoltatori che le prostitute sono socialmente utili. Sai quanti disabili ho portato da prostitute? Ma ragazzi, si lamentano tutti di queste puttane, prostitute, sfruttamento, non sfruttamento, eccetera, eccetera. Io vi dico una cosa, Maxim Chiasso, sbam, entri, divanetto, sbam bam bam, ti prendi la rumena, la moldava di turno, la inizi a carezzare, no? La carezzi, privettino, ok? 150 euro, 200 euro, te la porti in privé e te la schiacci come una bagasciona. Guardate che anche a Torino ci sono le linee tratteggiate dedicate alle prostitute. E sono in via Pietro Cossa per evitare che vengano schiacciate la sera. Ciao Crucia, te messaggio dalla Repubblica Centroafricana, la capitale Bangui. Qualche giorno fa sono andato con una collega burundese. Crucia, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. David? Sì, che vuoi adesso? Devo andare. No, David, aspetta un attimo, scusa, sono ancora... No, ma ancora... aspetta cosa? Devo andare, mi stanno microfonando, c'ho la diretta tra poco con Cofferati. Cofferati. Cofferati. Alan Friedman. Ma è vivo Cofferati?

la casa e l'affitto non la pagavo, mi pagavano anche se Berlusconi. Ma perché non l'hai messo da parte, scusa? Prima. Non l'ho messo da parte, se io ho avuto la parcella di un avvocato, Nadia Lecci, di 400.000 euro per 3 udienze. E dell'avvocato Pecorella per 400.000 euro per 3 udienze. La legge è stata condannata a restituirvi i soldi, sì, ancora sì. Adesso ti aspetto. E come la consideri tu questo avvocato? La legge era la mia più grande amica. Dopo 3 udienze mi fa una parcella di 400.000 euro. Se questo è un giuntivo conservativo per cui mi ha portato via tutto quello che avevo. Vabbè, ma quanto ti rimane in banca adesso? Quanto hai in banca? Se 12.600 euro. Mamma, roba da poveracci proprio. Se no, ma no, ma ti posso dire che tutto quello che avevo, tutto il mio gruzzolo, è stato sequestrato. Lei è stata condannata. E non ti vuole ridare i soldi. E non ti vuole ridare i soldi. Ma 12.600 è roba da Caritas, praticamente. Non è roba da Caritas. Insomma, roba che la patate non la posso pagare. Oh, 8.000, e 8.000 al mese non è che sono tantissimi poi, no? No, no, insomma, assolutamente no. Ma allora, se ci metti che devo pagare la benzina, che devo pagare il leasing della macchina. Sì, beh, certo. Se ci metti che devo pagare la cameriera a ore. Cameriera a ore, certo problema, se sì. Se ci metti che pensi che devo pagare le bollette dei telefonini. Quanto quindi, ti avanza? Niente. Quando sei arrivato alla fine del mese, quanto ti avanza? Niente, praticamente. Quando, alla fine del mese io... però, Giuseppe, tutte queste stronzate che si dicono sui soldi, fanno sì, e questo è un pericolo. Io lancio attraverso voi un allarme. Qual è il pericolo? Con le procure. Ehi, questi mi hanno svaligiato casa. Ma chi ti ha svaligiato casa? Ma questi chi? Questi chi lo so chi sono. Vabbè. Facciamo una colletta per Emilio, no, perché no, 8.000 al mese sono pochi. Ma quale colletta? Sì, ma poi cominceranno tutti quanti, quelli, tu c'hai 8.000 e io ce l'ho 300. Allora, sai che ti dico, ma che figura di me, posso anche dire, ma andate a fanculo, dopo 60 anni ma ci vai tu a fanculo, dai, su. No, voi va a fanculo, oh. Ho capito, ma la gente è 8.000, ma scusa, ma tu dici 8.000, dai. Ma parlo 18, 8.000. 8.000, 8. 60 anni di giornalismo, ma allora a fanculo, vado a lavare i sessi. Ciao. Beh, certo ragazzi, 8.000 euro al mese di pensione che non bastano, l'ha detta grossa Emilione, l'ha detta grossa Emilione, perché ragazzi, 8.000, dai su, 8.000 euro al mese, la benzina, la badante, l'affitto di casa, eccetera, eccetera, è un sacco di soldi 8.000, dai. Antonio Salerno, vai Antonio. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Io avevo chiamato prima perché un aspetto abbastanza, come dire, sciocco e semplice, però tutto questo populismo e tutte queste persone che alla fine mandare delle persone a lavorare per pagare delle sanzioni col loro lavoro, sì, è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. No, invece non questa qua è un'ottima idea. Non si può fare in nessun modo. È un'ottima idea. Perché, ti posso spiegare perché non si può invece fare. Di pagare le multe, invece in qualche caso, invece di pagare le multe, non posso mandare una persona a fare un lavoro perché devo valutare a che rischio è esposto. Devo stabilire se può fare quel lavoro. Vabbè, ma che c'entra? Lasciamo perdere i dettagli. Invece di perseguitare uno per non fare, per fargli pagare una multa, scusa, come gli fai fare un bel lavoro socialmente utile che gli italiani magari non vogliono fare o altre cose. Ma non lo so, si trova il modo, amico mio. No, bisogna saperlo, perché sennò. Vabbè, Antonio, ma al di là di questo, cosa vuoi dire? Non ho capito, che non è fatto una cazzata. Io ascolto delle trasmissioni perché vorrei avere delle informazioni. No, questa non è la trasmissione giusta. Bravo, non io è la vorrei aprirmi la mente. Non è la trasmissione giusta. Ma ti sembra una cosa corretta dire delle cose che non si possono fare? No, scusa, amico mio. Allora, il sindaco di Padova ha commutato. Come farà? Vediamo, magari è una cazzata. No, lo devi sapere, allora, non lo puoi dire. Invece di 500, ma che ne so, ma lo chiedi al sindaco di Padova. Cioè, invece di pagare 500 euro di multa perché uno pisciava per strada, lo ha trasformato questa cosa qui in 50 ore di lavoro di pubblica utilità per la città. Secondo me, siccome queste 500 euro alla fine, questo tizio che pisciava per strada, questo rumore, meno non le potrà pagare, è assolutamente meglio che questo qua faccia 50 ore magari a togliere la monnezza per strada, se c'è della monnezza per strada, a tappare qualche buca se non c'è il personale a disposizione, eccetera eccetera, a pulire il culo ai vecchi in un ospizio, non lo so. Tutto tranne che inseguire uno che tanto comunque non può pagare. Non mi pare una cosa così folle, o no? Le leggi in Italia lo impediscono. Ma amico mio, ma se adesso ti stai attaccando alla legge. Ma comunque, non si può dire in radio. Ma che vuoi? Ma vallo a dire al sindaco di Padova, ma che vuoi da me? Ma cioè, no, signor, lo dico a te perché tu lo dici. Ma io lo dico, io riporto quello che dice l'altro. Non si può fare, perché non si può fare? Non si può fare. Ma che vuol dire non si può fare? Che vuol dire non si può fare? Perché non si può fare? Perché un medico dovrà visitare questo tizio e dire: puoi andare a scopare in mezzo alle strade. La visita costa 100 euro. Mamma mia, che dettaglio! Mamma mia, due coglioni. Claudio Prato, non si può fare benissimo, si può fare. Claudio da Prato. È certo intervenire dopo l'altezza dell'obelisco di Siffredi e le parole di uno dei più importanti giornalisti italiani. Chi come sarebbe? Emilio è dura. Comunque mi richiamavo. Milione. Comunque mi richiamavo alla discussione simpatica sui Loles, sui Napoli, su Milano e sulle macchine scoperte. Per dire che recentemente a Napoli sono stati rubati, strappati da macchine scoperte due Loles falsi. Ora, delle due l'una. Sai perché? Perché ogni tanto uno si mette i Rolex falsi appunto per non farsi rubare quelli veri. Ma delle due l'una, ma veda dal punto di vista del ladro, delle due l'una. O le imitazioni erano pressoché perfette, che ci dovrebbe far riflettere su quello che costa tante volte la marca, o due, la scuola dei ladri napoletani è caduta proprio in basso. Perché se c'era una certezza, era quella che il simpatico guitto napoletano, lo scugnizio, a colpo d'occhio riconosceva l'oggetto di valore. E la cosa è preoccupante. È proprio se il mondo si è stravolto, è la fine di un'epoca. Ma non ho capito, quale sarebbe la fine dell'epoca? È il fatto che non si riesca più a riconoscere un Rolex d'oro da un Rolex patacato. Vabbè, Loretta da Modena, vai, Loretta. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. No, guarda, io volevo soldirti anche... Soldirmi? Che mi volevi soldirmi? non prendere in giro l'emilianità con cui ti sto parlando. Sì. Vai, Loretta, dimmi, dai. Ascolta, no, ti volevo dire che secondo me a volte l'hai anche citato, il vegetarianesimo, diciamo, delle persone può causare addirittura la rottura delle amicizie. Io ho una carissima amica che sempre di più si sta spostando verso gli estremismi di questa tendenza, quindi è partita da vegetariana, adesso sta diventando vegana e dunque non sopporta il fatto, non sopporta crudista. Il fatto, sì, non sopporta che tu mangi la carne, non sopporta più frequentarti eccetera. Ma più che altro neanche tanto quello, è abbastanza democratica nei miei confronti, anche se si vede tutto sommato che le dà fastidio, però frequenta può... persone suoi simili, diciamo, no? No, e quello è il problema, è che lei non frequenta praticamente più nessuno, perché è impossibile, non si può andare a mangiare con lei perché lei comunque è diventata anche celiaca, quindi c'ha pure quel problema lì, quindi è una cosa impossibile, rompe, non dico le amicizie, lo so. Però ma d'altra parte così, cioè si crea una... Cose di cronaca, bambini in ospedale, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Una nevrosi. Però Loretta, parlane con lei. Cioè, adesso, mi stai riferendo che cosa? Che le tue amicizie, una delle tue amicizie potrebbe finire perché lei è diventata vegana e diciamo non riesci più a frequentarla. Sì, d'accordo. No, la frequento lo stesso, ma ti sto dicendo che secondo me dietro a queste cose che sembrano di moda, in realtà si nascondono un po' delle difficoltà di, voglio dire, un po' di nevrosi, capito? E trovano sfogo in questa cosa qui che è un po' di moda. Io non so se è nevrosi o no, tu dovresti saperlo. Ciao. Tu le capisci bene le nevrosi. Ciao. Siamo al top! Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Helios Patient Portal è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. Cioè, io lavoro in un ristorante, se io ce ne guardi me scappa via una mollica e mi entrano le formiche, devo stare 3-4 ore a smadonna per ammazzarle tutte, e questi le evitano. Andate a fanculo tutti. quanto è stato sul cazzo le formiche. Cruciate, volevo dire una cosa, cioè stai attirando con questi discorsi strani sugli animali, le cose, i peggio pazzi che girano sull'universo, cioè addirittura quello che libera le zanzare e dice che liberandole percepisce l'amore che queste zanzare manifestano nei suoi confronti, cioè qui siamo proprio alla follia vera. No, ma si è raggiunta veramente la fine di tutto con quella che non pesta le formiche, ma come, in che cazzo di mondo viviamo ormai? Ma questi quando beccano una infezione batterica li prendono gli antibiotici oppure uccidono forme viventi come i batteri? Non è tutto finito. Ave cani del cazzo, venite a Fiumicino, io sto sul molo di Fiumicino, di fronte al ponte 2 giugno, sto là, venite, vi piglio a pesci in faccia, io ve meno con i pesci. Luca Brescia, vai! Il migrante Donata Varese, visto che non ho capito, scusa, aspetta, stai tranquillo, dimmi. Il migrante Donata. Aspetta, Varese. Fermo un attimo, Luca, ci sei, Telese? Sì, Peppino! Adesso mi hai rotto i coglioni con sto Peppino. Vai, sentiamo Luca da Brescia, vai sì, Luca. Grande Telese, il migrante Donato da Varese, visto che il suo accento non è proprio varesotto. È di origini, che... è di origini partenopee, credo. Esatto. Vabbè, ma non è importante quello, perché? E che c'è di male? Perché qua? Secondo me non, nella sostanza è identico a un migrante che viene dalla Costa d'Avorio. Non so se poi lui sia di... Breaking news per raccontarvi del fatto che Massimo Bossetti ha ricevuto l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Prossimi aggiornamenti nel corso dei giornali radio. Beh, adesso finisci Luca da Brescia, ma praticamente abbiamo dato la notizia in diretta anche a Telese, che si è occupata a lungo della vicenda Bossetti, sì, dell'ergastolo a Bossetti. Però facciamo finire Luca, poi andiamo su Bossetti, Luca, allora, Luca da Brescia, dimmi. Niente, solo questo volevo dire. Poi un'altra cosa, visto che non c'è Parenzo, però lo dico lo stesso. Io sono sempre d'accordo con Parenzo, però l'unica cosa è di fare la pipì nella doccia. La mia ragazza è medico e mi ha insegnato a pisciare nella doccia. Io bravo, molto bravo, molto bene, bravo. Bene, l'avevamo detto! Bene, molto, molto bene. Senti Luca, ti aspettavi la condanna di Bossetti all'ergastolo? Sì, ho fatto un tweet. No, ma non Luca da Brescia, che cazzo me ne frega. Luca Telese che si è occupato. No, per carità, mi interessa anche il parere di Luca da Brescia. Tutta l'Italia si aspettava la condanna all'ergastolo di Bossetti. Credo anche innocentista come Luca. Avevo fatto un tweet poco fa perché, come spesso sta accadendo, le sentenze vengono ribaltate. Il primo grado qua era scritto... perché in un tribunale e in una procura che hanno speso milioni di euro per questa inchiesta sarebbe stato uno schiaffo, una delegittimazione troppo grossa, una soluzione. Il processo è già scritto come accaduto per Meredith, per essere riscritto. Ma io non ho capito bene, Luca, io ho seguito poco, diciamo, le ultime fasi del processo, diciamo, gli ultimi mesi del processo. Da quello che ho letto, soprattutto le cose che hai scritto, tu ti sei convinto che non ci sono le prove sufficienti per condannare Bossetti. Sulla base di che cosa? Non ho capito bene. Allora, esattamente, cioè il processo ha dimostrato che la gran parte delle prove che sono state portate erano deboli, traballanti o addirittura sono cadute. Pensate che dei 7 grandi indizi, elementi di prova usati nell'ordinanza di custodia cautelare, la stessa accusa ne ha lasciati cadere tutti tranne uno, il DNA. Poi ne ha prodotti altri che sono caduti, per esempio, ve ne dico, c'è calce nei polmoni di Yara, quindi probabilmente è stato un muratore. Si è scoperto nel processo, dalle perizie dell'accusa, che non c'è calcio nei polmoni di Yara. E Bossetti ha fatto un percorso molto più lungo, irrazionale, per essere vicino a Yara e poterla sequestrare. Non è vero, è stato provato che era un percorso più razionale, che ci metteva meno tempo, sì, per andare dal suo cantiere fino a casa, passando di là perché evitava il traffico. Scusa, ma il DNA non è una prova definitiva da questo punto di vista? Guarda, no, tant'è vero che ci sono grandissimi dibattiti quando viene utilizzato, dove e perché, ma in questo caso c'è una cosa che non riguarda Bossetti, quindi è interessante per tutti i zanzaristi e riguarda tutti noi. Cioè, questo è il primo caso in Italia di un DNA che serve a una condanna che nessuno ha visto. Cioè, e come sapete, è andato distrutto nei diversi esami che sono stati fatti, alcuni persino a scopo sperimentale. Cioè, non si sono accorti che lo stavano consumando tutto, così hanno raccontato in aula, e quindi praticamente... È un esame irripetibile, in pratica. C'è una sentenza della Corte Costituzionale fatta proprio dopo il delitto di Perugia, che dice l'esame è valido, giustamente, se ti condanna, se è ripetuto 3 volte in condizioni di garanzia. Questa volta il DNA è stato un atto di fede. Sì, l'abbiamo fatto, risulta, non si può più rifare... perché è andato distrutto, pazienza. Ti aggiungo 2 dettagli su questo DNA. Metà DNA non coincide, nel senso il mio DNA è fatto di nucleare mitocondriale, è provato da un perito dell'accusa che il DNA mitocondriale non è quello di Bossetti, ma di un altro individuo che non è stato identificato. Insomma, tu ti sei convinto che Bossetti è innocente? Sì, no, ti sto dicendo... No, tu sei convinto che Bossetti è innocente o no? Sì, mi sono convinto che questi elementi non bastano a condannarlo. Se mi avessero dato delle prove, io non ho... Sì, ma sentendolo, vedendolo, analizzando, seguendo il processo, secondo te è innocente o no Bossetti? C'è la Allora, lo so che le sensazioni in questo caso non c'entrano niente, c'entrano... No, molte sensazioni. Lui è stato molto convincente in aula, ha parlato anche oggi. Nessuno lo ha potuto sentire perché... ricordatevi che questo processo è oscurato, anche questa è un'anomalia. È stato molto convincente quando dice: ma scusate, se per 4 anni avessi potuto prepararmi una difesa sapendo che era il colpevole, visto che siete stati così traballanti nel sostenere le accuse, sicuramente mi sarei potuto difendere. Però ti dico una cosa che mi ha molto colpito sono un ignorante, sono un cretino, non condannatemi. Cioè, Bossetti non è stato trovato un solo elemento di qualunque contatto con Yara, nessuno. Persino il giorno della scomparsa, la testimonianza della madre dice che Yara è rimasta a casa, non ha comunicato, non ha mandato SMS, non ha avuto... Cioè, non è mai stato scoperto un punto di contatto tra i due. Se, diciamo. No, è provato che non c'è stato, al punto che i periti dell'accusa, e poi io mi sto... riferendo solo alle perizie dell'accusa, quelle della difesa non le, in questo momento non le sto considerando, neanche un messaggio. Allora l'unica ipotesi che spiegherebbe questo delitto sarebbe che Bossetti proprio in quel momento è passato davanti alla palestra da cui usciva Yara, in un margine di 2 minuti è stato colto un raptus, l'ha sequestrata e l'ha portata via. Vabbè, Però possiamo dire, se c'hai un break o qualcosa, dopo gli aspetti di questo processo... Sulla pornografia sono incredibili. So che sei appassionato di questa materia, però... No, ma c'è un aspetto che riguarda tutti. Andiamo a Napoli da Enrico, vai. Vai, dimmi Enrico. Buonasera, allora Cruciani, quello che gli è successo, quella zoccola della Turner. Perché è una zoccola la Turner? Scusa. Te lo spiego io, perché lei conosce bene come vanno i media. Perché sappiamo che... E aveva tutto programmato, perché ti dico, i marioli che sono andati, cioè i signori, quei banditi che sono andati a prendergli l'orologio, sono super professionisti. Questa grande zoccola è già preparata, perché loro quando colpiscono all'improvviso, capito? Prendono proprio... che ti prendono e allora? Allora lei aveva programmato tutto, era pronta a reagire. Cioè, tu dici che si è messa d'accordo con quelli là per fare il casino? Per ottenere cosa, Enrico? Mi sono espresso male, forse. Non è che ti sei espresso male, hai esordito dicendo quella zoccola della Darne l'ha studiata. Quella grande zoccola l'ha organizzato lei. Ma perché? Perché? Ma è una follia. Non è una follia, nessuno. Ma non che si è messo d'accordo con i marioli. Ma ho capito, ma no. Perché dovrebbe aver organizzato sta roba? Spiegami. Ti spiego perché. Perché nessuno doveva avere un po' di visualità. Sì, c'ha bisogno di avere visibilità alla Turner. Ma senti, Cruciani, quelle che vanno per Rolex sono super professionisti. Il Rolex è bellissimo, il Rolex. Sono super... Quello era un Patek Philippe in realtà, non era un Rolex, comunque. Va bene, però diciamo a banda dei Rolex. Magari questi qua erano 4 scalzacani che è bastata una. Ma quando mai ce ne avevano 4 scalzacani? I 4 scalzacani vanno... Flavio, Napoli, vai Flavio. Giuseppe. Dimmi Flavio. Mamma mia, non si può sentire a quel direttore dei miei stivali, non si può sentire. Ma chi? È una vergogna, poi si lamenta quando per strada lo prendono a legnate. Ma ti rendi conto quello che ha detto? 8.000 euro al mese, 8.000 euro al mese, questo non ce la fa campare. Sì, l'ha, dire, l'ha detta grossa, sì. Ma ognuno ha il suo livello di vita, se quello vuole, hai sentito prima Fede da noi? Il livello di vita, se lo vuole, lo vuole lui il livello di vita, lo vuole lui così il livello di vita, perché alla fine se l'autista, la badante e tutte altre cazzate che ha detto per radio. Ma se quello vuole la badante, deve pagare l'affitto a Milano 2, e deve spendere la benzina, il leasing della macchina, eccetera, eccetera, evidentemente 8.000 euro al mese non gli bastano di pensione, scusa. Peppe, io ti voglio bene. Cioè, che cazzo c'entra questo? Stiamo parlando di 8.000 euro al mese. Ma lo so, ma dimmelo a me, eccetera. No, ma figurati, io non ma ognuno ha il suo livello di vita, se quello non lo vuole abbassare il livello di vita, che cosa... Me la sono presa addirittura, chiedo scusa, anche con la centralinista, ma io sono super incazzato con quel direttore dei miei stivali, con quel... Ma mi fa dire parolacce, che quello c'ha pure la denuncia lì. Però pronta, scusa, ci vuoi parlare? Facciamo una cosa, Luca, ci facciamo... No, Luca Telese stavo dicendo, Luca. Oh, Luca, dove cazzo è arrivato questo? Vabbè, Flavio, allora, che stavi dicendo? Non ho capito. No, ti stavo dicendo, non sto incazzato con voi, solo che sto incazzato con quel direttore là che c'ha pure la denuncia facile, se no io la bofferei di male parole, cioè non si può. Ma se vuoi lo puoi insultare. È un insulto, è un insulto verso le povere persone che prendono 3, 400, 500 euro. Telese, ti sento. Allora, proviamo a fare allora, che facciamo? Chiamiamo Fede, lo facciamo insultare da Flavio, dato che lo vuole insultare, che dici? No, sennò è troppo forse, che dici? È troppo. Ma sì, facciamolo dialogare, facciamolo convincere. Flavio, magari ti convince Emilio, eh? C'ha la denuncia facile, capito? Ci vuoi parlare o no? Ci vuoi parlare o no? Ma certo che ci voglio parlare, non ci stanno problemi, certo che ci voglio parlare. Cioè, solo dire, come cazzo fai a dire per radio, davanti a milioni di persone che ti stanno ascoltando, che tu con 8.000 euro non ce la fai a campare? Ma ti rendi conto? È un insulto verso le vediamo persone. Se persone. Vediamo se risponde. 500 euro al mese. Aspetta, Flavio. E ce la fanno. Vediamo la se fanno. Risponde. Parlaci tu, vediamo se risponde. E ce la fanno. Vediamo ma se non risponde. Ci fa parlare, se no io perdo le staffe e lo mando proprio. No, sii educato, aspetta. E sarà un grande confronto culturale. Aspetta. Parlaci. Eccoci. A dire tu. Allora, prima di tutto mi chiamo Flavio e chiamo da Napoli. Allora, le posso dire una cosa senza che lei mi denuncia? C'è la denuncia facile, le posso dire una cosa? Ma come cazzo ti permetti a dire per radio che guadagni 8.000 euro al mese e non ce la fai? Come cazzo ti permetti, dico io? Come cazzo ti permetti? Vergognati! Vergognati che stanno povere persone che non ce la fanno a campare con 400-500 euro al mese, non ce la fanno, e tu invece dici 8.000 euro io non ce la faccio, ma come cazzo fai a dire queste minchiate, che poi tu ti lamenti che per strada ti boffano di parole, ti prendono a legnate, ti dicono questo, ti dicono quello, ma è normale, tu spari queste cazzate, è normale che ti devono prendere a legnate per strada, peggio ti devono fare, peggio! Perché queste stronzate non si devono dire. È un insulto verso le povere persone. Verso le povere persone. E in queste povere persone c'è anche mia madre che prende 500 euro al mese e ce la fa. Perché non c'ha i vizi che c'ha lei, la badante, l'autista e questo e quell'altro. C'ha pure una che gli lava i coglioni? Sì? Mi sta ascoltando? Sì, benissimo. Però c'ha anche una che gli lava i coglioni, sì, e ci dà 500-600 euro al mese? Sì, perché i coglioni non si le lava lei? Perché la macchina non la porta lei? Perché le pulizie in casa non le fa la sua moglie oppure non lo so, qualcun altro? È 8.000, è risparmia, è un insulto verso le povere persone. Si deve solo vergognare, capito? Adesso mi può anche denunciare. No, faccia quello che cazzo vuole lei, però lei si deve solo vergognare davanti a milioni di radioascoltatori. 8.000 euro al mese, non ce la faccio. Solo la testa nel cesso si deve mettere, capito direttore? Capito? Adesso faccio parlare con Cruciani perché non voglio perdere tempo con lei. Non voglio perdere tempo con uno che spara minchiate un bassotto che cazzo come lei. Quindi mi faccio parlare con Cruciani. Grazie direttore. Non spara più cazzate perché per strada se la prendono a legnate, per strada se la prendono a legnate, sono persone che stanno incazzate con lei, anzi no con lei,